Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo. La bufera è passata, ogni cosa al suo posto. Festeggiamo l'estate ed il mare di agosto. Tutti insieme compatti, da Fonti da Tarzano. Tutti insieme felici in nome del popolo italiano. Mentre tutti cercavano il terrorista col cappello della foto, il mondo veniva bombardato dalle foto di un leghista con la felpa. Stiamo parlando dei selfie di Salvini. Salvini, che il giorno dell'attentato si trovava a Bruxelles. Nell'estate che scotta, siamo in ballo e balliamo, tutti insieme felici in nome del popolo italiano. Io non lo so, avrà fatto 35.000 selfie, 24.000 foto di gruppo, 250.000 video, 6 milioni di tweet. Ha scelto la sobrietà. Qualcuno gli ha dato dello sciacallo, ma io lo trovo ingiusto, Giova. Lo sciacallo non ha il pollice per premere il tastino del selfie. Giova, scusami, tu come lo chiameresti? Uno che si mette in posa davanti alle macerie lasciate dai kamikaze. Un kamikazzone? Sì, può essere. La Sibilla umana e la pizza sarebbe diventata più buona. La settimana scorsa se li faceva a Bruxelles, a Pasqua se li ha fatti su un deltaplano e oggi se li fa in Israele. Ora, io ho un piacere personale da chiedere a Salvini. Salvini, per una volta, te la fai una foto mentre lavori? Tutti insieme compatti, da Fonti da Tarzano. Tutti insieme felici in nome del popolo italiano. Beh, il kamikazone non è male, eh? Non è male il kamikazone. Oh mamma mia, adesso già mi diranno quelli: ma guardate, non è politica questa, è satira. Su, sorridete, non c'entra essere leghisti o non leghisti. Saluto la nostra amica Aurora Lussana, magari ci ascolta lei, magari a quest'ora incinta non ha da dormire, non lo so. Un abbraccione Aurora, però kamikazone non è male, eh? Il kamikazone non è male, che si fa le foto. Allora, saluto Giorgio Fornaio di Ravarino, Modena. Se non ci fosse la Saluzzi al mercoledì non avrei motivi di alzarmi, dice, a fare il pane, mamma mia. Cioè, cara Paoletta, capisci, pure e da mezzanotte sei l'origine del pane di Ravarino. Tutta Ravarino, paesino che non so quanti abitanti contenga, dovrebbe ringraziarti, perché se oggi hanno il pane è grazie al io fornaio. Io sono onorata di tutto questo e un giorno andrò a Ravarino a dare un bacio a Giorgio. Oh, e te ne esci via, con due pagnotte, ovviamente, tre sfilatini e quattro michette e Ale. Che bel lavoro puoi fare il pane, che bel lavoro. Beh, infatti. Difficili, perché lavori quando tutti gli altri davvero dormono, però bellissimo lavoro. Grazie Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Allora, ciao. Ci saluta già anche dalla Pontina il nostro ascoltatore, che belli i nostri fedeli ascoltatori, il fornaio di Ravarino, il nostro ascoltatore dalla Pontina, il meratese, non c'è ancora il meratese di Merate. Oh, va bene, cari amici, sono tempi un po' così, in cui anche dobbiamo temere anche un marito cornuto che gli prende le quattro ore e prende un aereo, si mette delle patate simulando una cintura esplosiva e terrorizza un po' mezzo mondo, soprattutto quelli che stanno a bordo di un aereo. Sono momenti un po' così. Cara Paola, questa l'hai sentita. Cornuti e incazzati. Sì. Vabbè. Molto, molto arrabbiato. L'idea delle patate... Non lì è... ci vuole un momento di creatività. Sì, esatto. Tolta creatività. Diciamo che alla fine tutto è andato a finire bene. A finire bene. Ci sono anche delle foto. Se fosse stata una persona più fragile, per esempio, una persona più fragile col cuore. Se fosse stato qualcuno che si fosse fatto prendere da un attacco veramente di panico vero, o una persona che avesse iniziato a soffrire, insomma. Sì. Dovrebbero fermarsi questi individui. Nel tempo, poco fa lo dicevi, delle lettere, delle ragioni da far sentire attraverso un amico, un'amica, insomma, proprio se vuoi parlare con qualcuno, il modo lo trovi. Sì, eccolo qua. Invece ha preso un aereo, si è messo delle patate, ha simulato una cintura esplosiva, tutto per consegnare una lettera alla sua ex moglie a Cipro, ma porcaccia la miseria! Succede anche questo. Comunque alle 6:33 minuti siamo qui con 24 mattino. Fatemi convocare anche il nostro super mega dir Luca. Buongiorno, Dini. Buongiorno. Eccolo buongiorno, qua. Buongiorno dir. Di la verità anche tu Luca, con non so, una vecchia fiamma, hai mai pensato di comunicare così? No. Ma magari tiro una patata. tiri una patata, esatto. Per attirare l'attenzione. Perfino un idiota. Guarda, esatto, guardalo qua i titoli dei giornali. Perfino un idiota è capace di farci paura. Poi c'è questa foto, non so se l'avete vista. A un certo punto, perché a bordo c'era anche un italiano. Gli italiani stanno dappertutto. Avevamo anche un italiano a bordo, cronista a bordo di quell'aereo Egyptair. Sono rimasti in cinque, sembra la barzelletta, uno scozzese, un britannico, un italiano, a bordo con il finto dirottatore, l'idiota insomma. E non so se avete visto questa foto che circola di questo dirottatore con questo inglese a fianco, che a un certo punto si è fatto una foto con lui. Per favore, ci fate una foto, che così ce la teniamo su. Ma come non l'hai vista? Non l'hai vista? C'è la foto del dirottatore con la faccia un po' mesta, d'altronde è stato tradito dalla moglie, quindi tutto così. E il quell'inglese a fianco con un sorriso a 32 denti. E la hostess che scatta la foto, c'è la foto, l'ho messa su Twitter, mi giuro. Non sai a chi tirare le patate, però. Non sai a chi tirarle. Ma infatti, diciamo che la signora ci aveva visto molto giù. Esatto. La migliore di tutte, secondo me, è la ex moglie di questo finto dirottatore di Cipro. Che ha visto molto lontano. Ma c'è questa foto, e tra l'altro l'italiano che era a bordo, intervistato oggi dai giornali, dice: sì. Ma io ho detto, ma è cretino questo, non il dirottatore, è cretino questo britannico che si è avvicinato per dire facciamo una foto ricordo. C'è anche la foto ricordo del finto attentato. A volte andrebbero sequestrati certi cellulari, andrebbero sequestrati. Esatto. Te lo ridò dopo, posso fare la foto? No, esatto. Dopo il telefono, zitto. Esatto. No, che devi fare? Come si suol dire in questi casi, anche no. Ecco. Anche no. Poi, anche no. Dopodiché, anche scrivigli anche tu delle lettere, sostienilo nel suo dispiacere, ma insomma, via. Dai. Certo. No, ma attenzione, qua c'è un giallo, tra l'altro, così completo i saluti. Massimiliano da Verona, Maddaloni, salutiamo Maddaloni. Eccolo il meratese che è arrivato, il camionista vicentino. Attenzione, perché Giorgio è l'altro fornaio di Ravarino e ci scrive anche invece a questo punto arrabbiato l'altro fornaio di Ravarino, che invece è Marco. Quindi sono Giorgio e Marco, sono due i fornai di Ravarino. E perché è arrabbiato? No, perché sono io, dice, sono io Marco il fornaio di Ravarino. E Giorgio dice, io il fornaio di Ravarino. Vabbè ragazzi, anche pure i guelfi ghibellini per fare il pane. Ma va bene, salutiamo sia Giorgio che Marco. Insomma. Esatto, Giorgio e Marco, fornai di Ravarino. Bene. Allora, cari amici, alle 6:37 minuti, in realtà si sorride, ma sono tempi cupi, tempi bui, tempi difficili. Brutti. Sì, cara Paola, tempi bui. Intanto oggi pensi di tornare a lavorare? Assolutamente sì. Ero in vacanza ieri era una pausa, diciamo, per dare... Dovevo dare un aiuto in casa ai miei genitori e quindi dovevo fare una cosa molto molto importante per loro. Vabbè, no, ho dovuto no, prendere no. una pausa in questo. No, ci tengo a dirlo, perché, sennò sembra che uno faccia proprio la Pasqua allungata oltre i termini del documento. Ma guarda, no, che no, per me tu puoi stare in vacanza, cioè se sono meritate puoi anche farti una settimana di vacanza. No, la Pasqua merita una vacanza breve, insomma, non bisogna allungare più di tanto. Oggi si torna e quindi si torna con le notizie che uno ha continuato comunque a seguire. E certo. Passo passo, sai, quello che è successo a Lahore è stata una cosa terribile. Cioè se ci fosse un altro aggettivo da trovare e da poter trovare, saremmo lì a cercarlo. Con l'aggiunta, con l'aggravante, lo dico sempre, della distanza chilometrica. Perché sai, lo vedevo stando con le persone, chiacchierando, dialogando, e attenzione, la mia non è una critica, è semplicemente un riferire. C'era un sentire diverso. Ma è chiaro, guarda dove, che purtroppo lì saltano per aria ogni... Ma purtroppo quello che si dice nel gergo giornalistico, cioè che la distanza poi attenua i fatti, la gravità dei fatti, è purtroppo vero, cioè è una regola sbagliata se volete, di quella di questi tempi, Alessandro, quella che si chiama notiziabilità, cioè 70 morti in Pakistan, dice vabbè, ma stanno in Pakistan, sono lontani, la gente non li vede, però purtroppo poi il risultato è che appunto se ne parla come se fosse una cosa distante, va bene. Successa laggiù, il concetto è quello del laggiù, no? Se fossero stati tutti bambini nostri, avrei voluto vedere a un parco giochi in pieno centro di una città bianca. Mamma mia, giustamente, tocchi la vita e il futuro, la zeri, però così, ecco, brutti tempi. Per esempio, e torniamo a parlarne. Per esempio, caro Luca e cara Paola, una cosa che invece poteva sembrare lontana e che invece c'è piombata nelle nostre case è questa vicenda di Giulio Regeni, che non è ancora tutt'altro che finita. Ieri la madre di Giulio Regeni ha parlato, oggi noi avremo il senatore Manconi ospite alle 8:15, ha parlato e sentite la mamma di Giulio Regeni. Se il 5 aprile sarà una giornata vuota, confidiamo in una risposta forte del nostro governo, ma forte, perché è dal 25 sera, quando Giulio è scomparso, che attendiamo una risposta su Giulio. Allora, qui Luca, okay, c'è da capire una cosa, perché molti dicono, ma come mai se ne parla così tanto di una vicenda drammatica, però non è l'unico italiano morto all'estero, o meglio ucciso in questo caso all'estero, è giusto parlare così tanto, Luca? Beh, è giustissimo, perché quello che è successo non ha, secondo me non ha veramente eguali nella storia recente, in realtà. Tutti i paragoni sono insufficienti, perché è una persona torturata in modo barbaro per aver commesso nulla, ma ripeto, anche se avesse commesso qualcosa, anche se fosse stato un criminale, che non è, non si può trattare una persona in questo modo disumano. Non può succedere in un paese che è il nostro partner commerciale importante, che ha bisogno dei nostri soldi, tu hai toccato... più di quanto noi abbiamo bisogno forse di lui, quindi infatti, bisogna essere duri in questo caso. Ma tu hai toccato un tema interessante, perché sai che non sono pochi quelli che dicono, quando la madre dice una risposta forte del governo, perché molti dicono, ma interrompere le relazioni commerciali, almeno richiamare l'ambasciatore, fare un gesto, cioè è possibile che non si possa, in nome sempre degli affari, in nome delle relazioni diplomatiche, in nome, non si possa mai fare niente, accettare tutto, tollerare si tutto. Può, si può, e gli affari, ripeto, sono importanti, ma sono molto più importanti per l'Egitto che non per l'Italia. Quindi, siccome c'è un governo che si deve muovere e deve prendere dei provvedimenti, bisogna fare pressione, perlomeno provarci. È la prima cosa da muovere, purtroppo. È quella, perché purtroppo è la leva che può, ma certo, far succedere qualcosa. Han fatto notare, scusa Paola, che a Sharm el-Sheikh, dopo Sharm el-Sheikh, cioè l'attentato in Russia, l'attentato all'aereo russo, non è che la Russia abbia interrotto le relazioni commerciali, questo no. Però, per dire, sono interrotti i voli dalla Russia a Sharm el-Sheikh e i voli della Egypt Air sulla Russia. Già questo, voglio dire, chiamalo poco, voglio dire, tutto il turismo. Parliamo di un caso molto più grave, perché di un omicidio con forte connotazioni politiche, insabbiato in modo molto sporco. Cioè, ecco. non è terrorismo, è sì. qualcosa di più. No, certo, anche se colpisce una sola persona, è un qualcosa di grave. Paola, che dovremmo fare? E poi colpisce una persona che noi sappiamo. Sa quante altre ne colpisce. Ma la grandezza, la grandezza, sì. Luca, la grandezza della mamma ieri, dei genitori, è stata questa. È stata quella di dire: non solo nostro figlio ha subito un trattamento che un italiano dai tempi del nazifascismo non subiva, cioè via Tasso, per sì, capirci, a Roma, sì, sì. quando dice non solo a Roma, insomma, vale in tutta la nazione, quando dici via Tasso, intendi quel luogo dove i nazisti, i nazifascisti, staccavano le unghie. Strappavano le unghie alle persone, dove c'erano le torture, va bene? Esatto. E questo è uno. Due, avere anche di fronte un paese che ne ha ammazzati altri cinque, non sappiamo chi fossero, non sappiamo che, da dove provenissero, non lo sappiamo, cinque sedicenti sequestratori di cittadini stranieri, sequestratori e torturatori di cittadini stranieri che nel frattempo si vestivano anche da poliziotti per seminare il panico e fare del male al governo egiziano. E guarda caso i documenti di Regeni stavano a casa di questa gente. Sì. Quello è troppo. Sì, insabbiamento, troppo, il classico cioè, insabbiamento. Ma e poi... non, ripeto, non sappiamo chi fossero, ma si prosegue a trattare la vita umana come se fosse poltiglia. No, no, questo quindi, sì. Io dico qualcosa va fatto, qualcosa va fatto. Io non lo so. Poi non... andrebbe fatto anche un'altra cosa. Che cosa? Sì. I colleghi giornalisti italiani che hanno con moltissima leggerezza scritto storie sulla presunta, cioè diciamo sul ruolo di Regeni come fantomatico collaboratore dei servizi, eccetera, sì. dovrebbero andare, come minimo dovrebbero chiedere scusa ai genitori di Regeni. Detto che comunque anche se uno fosse una spia in un no, paese infatti, normale non è viene accompagnato all'uscita e rimandato a casa, non torturato come un animale. Quindi, però devo dire che a volte quando si scrivono queste cose bisognerebbe avere un minimo di coscienza, pensare che c'è qualcuno che sta piangendo un figlio, insomma io l'ho trovato veramente disgustoso perché c'era alla base una specie di, come dire, un sottofondo di se l'è cercata. Sì. No, ma poi vedi, cioè poi tutte queste, ci scrive un ascoltatore, beh ma è stato ucciso secondo me per far saltare l'accordo con l'ENI, ma voglio dire, ma, cioè, ma siamo a questi livelli, ma viene ucciso una persona, ma da quando in qua, per carità, siamo tutti parte di questo mondo e sappiamo che succedono anche cose sporche, cose, ma perché, cioè quante volte ci sono accordi commerciali che vengono fatti saltare? Non è che nel mondo. Ma andiamo a cercare le tante mamme e papà di Giulio Regeni egiziani che ci sono in questo momento in Egitto. Questa anche, sarebbe una grande operazione, okay. Perché voglio dire, le madri di Plaza de Mayo si sono riunite così. Hanno cominciato a dire: hanno torturato e ucciso mio figlio, hanno torturato e ucciso mia figlia, non riesco più a trovare mio figlio, non sappiamo dove sia nostro figlio e addirittura i figli dei figli se ne sono andati. No, ma è chiaro, noi abbiamo ecco, la pressione mediatica sul caso italiano, ma quanti egiziani finiscono così. Comunque qualcosa andrà fatto, non lo so, noi ne parleremo poi con il senatore Manconi che ieri ha in qualche modo ospitato questa conferenza stampa dal ruolo della sua presidenza di commissione al Senato. Dobbiamo andare al traffico però, poi avremo un Bertolaso che promette fuoco e fiamme su Roma, fa oggi anche un'intervista spettacolare al Fatto Quotidiano, vi farò sentire anche qualcosa, anche preparate le palette che c'è da votare Renzi in inglese, Renzi in America e ho detto figurati se non si è prodotto nel suo inglese, invece ce l'abbiamo. La colazione dell'italiano, cappuccio, cornetto e traffico a volontà. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Ho sentito quello che ha detto D'Alema e alla fine ha fatto anche una risatina perché ha capito anche lui che ha detto una cazzata. Carissimi amici italiani, vi volevo invitare a una riflessione. Cominciate a rassegnare perché... Dopo i 20 anni di Benito Mussolini, amici miei, ci dobbiamo assorbire i 20 anni dell'amico fiorentino. Buona settimana a tutti. Due robe, una bea e una brutta. A settimana comicia con un giorno de manco e a sena roba bea. A settimana comicia con un'ora de manco, e questa è una roba brutta. Un'ora de manco, Milan, un'ora de manco de dormir. De bosciato, muovete che te sei in ritardo. Alino, non ho chiuso occhio stanotte pensando alla rossa. Dai, dai, dammi la rossa. Eccola qua, eccola qua. La rossa, credo sì. C'è un'unica rossa al mondo per noi. Paola adorato. Saluzzi. Paola Saluzzi. Adorato, gente che non dorme, pane che riesce a essere creato a Ravarino, grazie. Beh, cioè, ma capite che piccolo miracolo quotidiano. A forma di cuore. Pane rosso. Pane rosso, fanno pane il pane rosso, dopo il pane nero, il pane. Fate il pane rosso. Ravarino, fornai di Ravarino, fate un contest, il primo che fa una pagnotta di pane rosso in onore della rossa e ci manda una foto, anzi mandateci anche la pagnotta, anche se arriva due giorni dopo, insomma, testimoniatecelo, vincerà non sappiamo cosa, no non voglio dire vincerà la rossa, perché la rossa non è in palio assolutamente. Un bacio allora, vincerà poi riuscirò a dare di un invito a Roma, a Sky. No, non posso assumermi neanche questa. Un invito ho qui un direttore, devo chiederglielo. Sì, esatto. Esatto, vabbè. Comunque, Bertolaso. L'ora di meno, si dorme un'ora di meno, è vero. È vero. L'abbiamo calcolato. Ormai, dai, è passata. Mamma mia, facciamo i viaggi con i fusi orari di 6 ore e smaltiamo tutto, no? Comunque. Bertolaso, attenzione, perché Bertolaso che non molla, oggi al Fatto Quotidiano dico mollo solo se capirò che la gente mi sfancula, così proprio quando intanto abbatto il microfono dalla foga. Bertolaso però promette renderò il Tevere balneabile in 5 anni, e qui capisci che la faccenda si fa gravissima. Se sistemiamo bene tutti i depuratori e facciamo una gestione delle fogne migliori di quella che c'è adesso, il Tevere può davvero diventare balneabile. Entro la fine del suo primo mandato? 5 anni ci vogliono tutti. Era un giorno da pecora. 5 anni se li prende tutti. Paola Saluzzi, però tu prepara il 2 pezzi, perché è un bel tuffo nel Tevere. Nel biondo Tevere, mamma mia, fosse vero, poi... No, Paola, terrei anche uno scafandro di riserva. Esatto, questo. Nel Tevere, no, non mi butterei mai nel Tevere, sono sincera. Infatti l'uomo che si butta ogni Capodanno di romano nel Tevere, fa il tuffo, io non... Mister Ok si chiamava una volta. Sì. Continua a chiamarsi così, lo considero una specie di uomo con scafandro naturale. Ma credo che l'abbiano tirata fuori la storia proprio parlando di lui, no? E lui ha detto, sì, lo rendiamo balneabile, 5 anni ci vogliono. Ma magari. Solo che poi camminerà anche sulle acque il futuro sindaco di Roma se fa una cosa del genere, perché anche perché non credo a memoria che esiste un fiume di quella lunghezza che vicino alla foce è balneabile, quindi sarebbe veramente un'impresa alla Bertolaso, titanica. Vabbè, siete pronti con le palette? Ce l'avete? Siamo da 0 a 10, dai, vediamo se Renzi è migliorato. In inglese, Renzi. Obviously, also for me, Stillwater is not very famous until 2 months ago. But Francesco told me there is a very incredible place around the world, in Nevada, in which we can build a piece of future. Okay, I come from Florence, and so it's not easy to image the future in Florence, in Rome, in cities in which the past. Is incredible. Luca, all'inizio io non ho capito Francesco, non è il Papa. Però c'è un attimo di incertezza. C'è stato un attimo, è partito un po' così. Che voto gli diamo? Ma io un 6 glielo do. 6? No, ma infatti... Sì. Era comprensibilissimo. Sì. Sta migliorando. Con il garbuglio iniziale, devo dire. Con? Tranne quel garbuglio sì, all'inizio ha fatto un garbuglietto. Obviously, also for me Stillwater is not very famous just until 2 months ago, but Francesco tu no si capisce andiamo, e ricordiamoci che veniamo da Rutelli, come parlare inglese, esatto, come ci scrive un ascoltatore, ricordiamoci che veniamo da Rutelli. Please è molto alto, visit my country. Ve lo ricordate? And please. Ma poi, vabbè, mi attirerò qualche critica sicuramente, però chi viaggia per il mondo sa che in Italia ridevano dei nostri governanti per altri motivi. Nessuno si aspetta che parliamo benissimo inglese, anche perché gli altri parlano un pessimo italiano, ecco. O non parlano affatto. Oltre a Ravarino, posso dare un bacio a Luca Dini? Va bene, diamo un bacio a Luca Dini, va bene. Io vorrei dare un bacio a fare il pane, pane pagnotta rossa, mi raccomando. No, parliamo invece di cosa c'è, cosa Giacoppo è presente in edicola, scusate, visto che parliamo di pane. Cosa è stato appena sfornato? Infatti io vorrei dare un bacio alla copertina di Vanity Fair, lo faccio, eccolo, anzi così. Vuol dire che? Così farlo perché è libera adesso. È perché è libera. No, io non la conoscevo, pensa. Quindi tu mi dici pure che è libera. Non avevo neanche ben presente chi fosse Jennifer Garner. Ecco, devo farla vedere a Peter Biscapè. C'è sempre. Cioè, quando scatta questa attenzione, Peter che fa? Fammi vedere. Peter, fai il bravo. Tu che. Jennifer Garner, la faccio vedere e dicono non si butta via, è la ex di Ben Affleck. Guarda, Lorenzo Nespoli appena la veste ha detto è la ex di Ben Affleck. Nespoli è sempre informato, vabbè, ma cioè, si sa. Ha indovinato giusto, Luca? Assolutamente sì. Ha vinto qualche cosa? Ti ricordi quando c'era? Ha vinto qualche cosa? No, non ha vinto niente. Comunque, una pagnotta rossa. Comunque c'è la foto di Jennifer Garner, ci sono tanti servizi, come sempre il nuovo numero di Vanity Fair, purtroppo non faccio in tempo però ad approfondire, anche perché vi vorrei lasciare con questa chicca finale, ricordandovi anche ovviamente alle 15 finalmente Paola Saluzzi torna a lavorare, eccomi, a Sky TG24 pomeriggio. C'è stato un colpo di Stato in Italia e voi non ve ne siete accorti, il colpo di Stato nel piccolo principato di Seborga, che da 4 anni era retto da Marcello Menegatto, l'imperatore Marcello I. Guardate che è tutto vero, è in provincia di Imperia, ma un cittadino francese, Nicolas I, si è lui autoproclamato principe di Seborga, con un messaggio audio in francese che lasciamo anche alla nostra Marie-Françoise, che ci ascolta da Monte Carlo e che capirà, è il golpe bianco di Seborga. Ciao. Per cela, je tiens tout d'abord a remercier la majorité d'entre vous pour les nombreux messages de confiance et de soutien que je reçois et à travers desquels. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7:18 minuti, cari ascoltatori, siamo qui a leggere i giornali e voi debosciatelli miei, come state? Su che la Pasqua è passata, la Pasqua è finita, anche gli ultimi rientri di ieri, si torna a lavorare, si torna a produrre finalmente. Quando è le prossime vacanze? Siete lì col countdown, Ferragosto, dice Peter Biscapè. 25 aprile per me è un giorno come gli altri, il primo maggio è domenica quest'anno e quindi vabbè dai. Allora, settimana prossima le vacanze, perché Lorenzo Nespoli va in ferie settimana prossima. Ora devo parlare subito col direttore del personale per vedere se sono confermate queste ferie, vedremo, abbiamo tempo ancora 2 giorni per verificare. Allora, intanto dai, andiamo a leggere i giornali, forza! Allora, saluto anche un ascoltatore che mi dice: ti ascolto in podcast ma un giorno in ritardo alla stessa ora, religiosamente, e le persone in metropolitana mi guardano allibite. E va bene. Sono indispensabile come il caffè al mattino, caro ascoltatore, finché resisto, caffè gratuito servito. Allora, in questo mercoledì 30 marzo, il Sole 24 Ore come apre? Unico e 7:30, il fisco lancia l'operazione precompilata. Questa è l'apertura con l'Agenzia delle Entrate che ha predisposto 30 milioni di modelli disponibili dal 15 aprile. Tutte le anticipazioni sono sul Sole 24 Ore. E invece la questione Regeni, tra l'altro noi avremo ospite alle 8:15 il senatore Manconi. per parlare della conferenza stampa che c'è stata ieri con la madre di Giulio Regeni, Paola, che ha parlato pubblicamente, ed è il titolo di apertura di molti quotidiani. Per il Corriere della Sera, caso Regeni, la madre scuote l'Italia. Per Repubblica, Regeni, l'ultimatum dei genitori, la pista dei sicari armati dai servizi. Il Fatto Quotidiano, urla nel silenzio, Giulio torturato da nazi fascisti, ma l'Italia non rompe con Al-Sisi, cioè il presidente egiziano. Anche per il Manifesto e l'apertura c'è la foto con questo striscione, verità per Giulio Regeni, il titolo è I testimoni. Era mio figlio, è questo invece il titolo di apertura dell'Unità. Per la Stampa invece, Libia, i piani dell'Italia per l'intervento, il governo considera l'impegno dei Tornado e delle forze speciali contro l'ISIS. L'apertura invece di Avvenire, i veri martiri pesano, la strage di Pasqua scuote il governo pakistano, quindi si torna sulla strage di Lahore. Venendo alle cose più italiane, il titolo di Libero, crediti svenduti ai VIP, così la Banca d'Italia ha rovinato le banche, svelati gli omissis sulla vendita del primo pacchetto di sofferenze di Etruria, questa è l'apertura di Libero, mentre il giornale fa paura anche un idiota, è la psicosi terrorismo, il dirottamento dell'aereo Egyptair. Voglio partire da che cosa? Una sentenza che fa discutere sulla separazione di due coniugi e l'educazione da dare ai figli. Lo racconta Repubblica, come lo racconta anche Libero. Leggo da Repubblica, Franco Vanni, a pagina 17. Il giudice dice i figli alla scuola pubblica. Il provvedimento del tribunale per risolvere la contesa tra genitori separati sul tema dell'istruzione. Il giudice decide così, la scuola pubblica rappresenta una scelta neutra, mentre la privata potrebbe orientare il minore verso determinate scelte educative e culturali in genere. Con questa motivazione il Tribunale di Milano ha deciso che i figli di una coppia separata debbano frequentare un istituto statale, come chiesto dal padre, e non uno cattolico paritario indicato invece dalla madre. È una sentenza firmata lo scorso 18 marzo, giudice Giuseppe Buffone, nona sezione civile, conclude il giudice che non si possa affatto dire che la scuola privata risponda al preminente interesse del minore, poiché vorrebbe dire che le istituzioni di carattere privato sono migliori di quelle pubbliche. Pertanto, conclude il giudice, la decisione dell'ufficio giudiziario non può che essere a favore dell'istruzione pubblica. Libero la mette come polemica a dire ormai anche la scuola dei figli di separati la sceglie il giudice. D'altronde, se c'è una separazione e non c'è un accordo, qualcosa il giudice doveva scegliere, e ha scelto così. Ormai decidono anche sull'educazione in famiglia, questa è la posizione di Libero. Comunque una sentenza che fa discutere riguardo a questa separazione. Trovate su Repubblica e su Libero i dettagli. Come rimanendo su Repubblica, troverete un'intervista che mi ha un po' colpito, perché all'inizio ho detto, ma com'è possibile un'intervista di una pagina al primo cittadino, cioè al sindaco di Riace? Che è successo a Riace che mi è sfuggito? Ebbene, è successo questo, che Fortune, la rivista americana Fortune, mette il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, 57 anni, da 3 mandati sindaco, tra i 50 personaggi più influenti al mondo. Al mondo. E mi sono chiesto, ma che è successo? Ebbene, a Riace c'è un modello considerato ottimo di accoglienza degli immigrati. Alessia Candito, intervista a pagina 9 di Repubblica, appunto, il sindaco. C'è un solo italiano tra i 50 personaggi più influenti al mondo. Non ha incarichi di governo, non è a capo di una grande azienda. Si chiama Domenico Lucano. Da 3 mandati è sindaco a Riace, paesino calabrese dove un quarto dei concittadini sono dall'Afghanistan, Senegal, Mali, hanno rischiato la vita attraverso il Mediterraneo, a Riace hanno trovato una casa. Qui, dice il sindaco, non ci sono centri di accoglienza, qui ai migranti diamo una casa vera. Non so neanche chi mi abbia candidato a entrare in questa classifica, forse una studentessa statunitense che ha lavorato su Riace, una TV che si è occupata di noi, l'ho saputo da chi mi chiamava per farmi complimenti, sono solo un sindaco che ci mette l'anima. Per anni sono stato un insegnante di laboratorio di chimica, ora sono in aspettativa, ma non ho mai vissuto di politica. Sono stato anch'io emigrante a Torino, a Roma, e tornare in Calabria è stata la scelta più difficile, perché come tanti avrei voluto e potuto costruire la mia vita al nord, ma la voglia di tornare era forte. Il mio scopo da militante nel movimento studentesco, pensavo di poter partecipare alla costruzione di un mondo migliore. Poi quella via in Italia si è smarrita, e allora a me è rimasta la voglia di fare qualcosa di concreto. La prima volta che mi candidai non mi votò neanche mio papà. Poi nel 98, sulle nostre coste, è sbarcato un veliero pieno di richiedenti asilo curdi. Quell'esperienza ha cambiato tutto, con l'appoggio del vescovo di allora di Locri, Monsignor Bregantini, che invitò ad aprire conventi per accogliere i migranti. Ci venne l'idea di usare le case abbandonate del centro storico per ospitare un popolo in fuga. Insomma, parla il sindaco di Riace per Fortune tra le 50 persone più influenti al mondo. Oh, questa è una bella notizia invece che ho trovato sull'Unità, è il bonus cultura che ha deciso di fare privatamente però Brunello Cucinelli, forse lo conoscete, conosciuto come imprenditore, il re del Kashmir, è definito così, considerato un imprenditore molto illuminato, un imprenditore che guarda anche ai valori, al valore del proprio personale, così almeno raccontano tutti coloro che l'hanno conosciuto. Ebbene, Brunello Cucinelli, racconta Maristella Iervasi sull'Unità, si è inventato il bonus cultura per i propri dipendenti, e cioè portatemi fino a 500 euro al mese di scontrini, di libri acquistati, musei visitati, spettacoli a teatro, al cinema che siete andati a vedere, paga l'azienda. Beh, mi sembra una cosa ottima l'investire nella cultura dei propri dipendenti. Biglietti del cinema, di spettacoli teatrali, libri. Brunello Cucinelli, 63 anni, ha convocato i suoi dipendenti e collaboratori alla vigilia di Pasqua e tutti operai impiegati si aspettavano il solito brindisi. Invece il loro capo imprenditore del tessile, con quel breve discorso, li ha sorpresi ancora una volta. Ha offerto a ciascuno di loro il bonus cultura. Tutti i costi di queste spese saranno interamente rimborsate dall'azienda. Brunello Cucinelli. Mentre invece, che dire, ragazzi, io quando sono incappato in questa notizia trovata su Repubblica, ma soprattutto sul Secolo XIX con grande enfasi, sono rimasto un pochino basito. Succede a Finale Ligure, in provincia di Genova, e il Secolo XIX lo mette a pagina 8. E riguarda il divieto non tanto di giocare a calcio, non è che è vietato giocare a calcio, è vietato giocare a calcio, o meglio, si può giocare a calcio per i ragazzi a Finale Ligure solo in un determinato modo. Eccolo qui: regolamento di polizia urbana a tutela dell'incolumità delle persone che frequentano la piazza, quindi nella piazza di Finale Ligure, non in tutta Finale Ligure, non è consentito, vabbè, compiere evoluzioni con biciclette, skateboard, pattini, monopattini, eccetera, e va bene. È consentito poi l'uso di palloni leggeri per scambi ravvicinati rasoterra. Capito? Cittadini di Finale Ligure che andate in piazza, si può giocare solo, come qualcuno dice, il tiki-taka del Barcellona, solo passaggi lenti, o meglio stretti, rasoterra, niente colpi di testa, niente cross. Eccolo qui, Finale Ligure, sì al calcio in piazza, ma solo rasoterra. E giustamente i ragazzi di Finale Ligure protestano. E che siamo, il Barcellona, il tiki-taka? Beh, cominciate così, con dei fraseggi, dei triangoli, magari diventerete i nuovi Messi, i nuovi Sanchez, i nuovi Neymar del futuro, che ne sapete, magari da Finale Ligure, da un'ordinanza della polizia municipale un po' strampalata, nasceranno i nuovi Messi, i nuovi seguaci del tiki-taka, e chi lo sa. Chi lo sa? Abbiate fede, cari ascoltatori e cari cittadini di Finale Ligure, ma così succede. Va bene, siamo al momento dell'articolo che mi fa pensare della giornata, e sono i dettagli che ogni giorno emergono sulla vicenda che ha portato all'arresto di questo PR 52enne, 56enne anzi, Claudio Nucci, noto PR a Roma, in carcere dal 9 febbraio per prostituzione minorile, detenzione di materiale pedopornografico, con il telefonino intercettato, i dettagli che escono, e c'è anche il giorno che lo racconta, il sesso coi ragazzini e le frasi shock del PR. Intercettato: se ti dico l'età del mio fidanzatino ti prende un colpo. Questo diceva intercettato al telefono a un amico. E poi me mettono in galera. Guarda, se ti dico l'età me mettono in galera. C'è finito. Agghiacciante quello che dicono. È una vergogna. Alessandro Milan, the best newspaper reader. Va bene, caro ascoltatore, mi piace questa di renziana memoria, la voglio leggere così. Mi piace questa sigletta e la ringrazio. Allora, siamo a parlare della vicenda Giulio Regeni. Vi ricordo che avremo il senatore Luigi Manconi ospite alle 8:15, lui che è presidente della Commissione Diritti Umani e che ieri era a fianco della madre di Giulio in questa conferenza stampa. La quadra della madre di Giulio Regeni ha fatto un appello molto molto forte, intanto ha dato una data, e cioè il 5 aprile, quando verranno gli inquirenti egiziani qui in Italia. E lì sarà un momento di scambio di idee per capire se continuano i depistaggi sulla morte di Giulio Regeni. Beh, questa intervista, che è più una trasposizione della conferenza stampa ieri che troviamo su tutti i giornali, la leggo dal Corriere della Sera, pagina 2, è impressionante. Ho riconosciuto Giulio dal naso. Dice la madre di Giulio Regeni: siamo qui per ricordare che persona fosse Giulio, portare avanti i suoi valori. L'ultima foto sua fatta il 15 gennaio, quando ha compiuto 28 anni, era quella foto che conoscete. Sotto c'era un bel piatto di pesce e di un viso, poi, che era diventato piccolo piccolo, che abbiamo baciato e accarezzato. L'unica cosa che ho veramente riconosciuto come sua è stata la punta del suo naso. Questo a dire, ovviamente, le torture che aveva subito. Se il 5 aprile, giorno dell'arrivo in Italia dei funzionari egiziani, sarà una giornata vuota, confidiamo in una risposta forte del governo, ma forte, perché è dal 25 sera, da quando Giulio è scomparso, che attendiamo risposte. Mi auguro di non dovere mostrare la foto di Giulio, mi auguro per lui. E poi racconta: è partito per il Cairo sereno, anzi stava passando un periodo molto felice della vita. Vedeva finalmente una prospettiva di realizzazione dello studio, ma anche della sua vita personale. E poi mi ha telefonato due giorni dopo la scomparsa la console e mi ha detto che Giulio era scomparso. Ho atteso che arrivasse a casa Paola per darle la notizia. Questo è il racconto invece del padre. Quando poi c'è stata l'uccisione di 5 persone in Egitto, la madre ricorda di avere detto al padre: sono tornata a casa, ho detto a mio marito, magari ora mettono su questa sceneggiata e ci dicono che sono loro gli assassini di Giulio. Risponde anche la madre alla domanda se il figlio collaborasse o meno con i servizi segreti. Avevamo contatti molto sicuri, profondi, intimi, ci raccontava tutto. E nessuna informazione lasciava pensare a un lavoro sotto banco. Vabbè, questo è quello che ha detto la madre. Vediamo quello che dice il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, intervistato da Paolo Valentino sul Corriere della Sera. Dice: piste improbabili, offensive, siamo pronti a trarre le conclusioni se non ci sarà collaborazione. In realtà, come si fa nella diplomazia, non si spinge molto oltre Gentiloni, se non a dire: il 5 aprile, quando c'è la visita degli investigatori egiziani, peraltro non ancora confermata, potrebbe essere l'occasione per un cambio di marcia da parte dell'Egitto. È chiaro che ogni decisione si può prendere in una fase successiva se si verificasse che non ci sono margini per una cooperazione efficace. E di fronte alla mancanza di collaborazione valuteremo le misure possibili, ma noi ci auguriamo che i rapporti tra Italia e Egitto possano dar luogo al salto di qualità necessario. Se non ci fosse, ripeto, saremmo prontissimi a trarne le conseguenze. Non dice molto di più. In diplomazia funziona così. passo dopo passo. Non è che si dice se il 5 aprile non succede questo, noi faremo quest'altro. Trarremo le conseguenze. Questa è la frase che Paolo Gentiloni, che poi parla di Libia, parla di ISIS, di anche altre, di Bruxelles, di altre tematiche internazionali, si lascia scappare. L'unica cosa che lascia scappare è l'unica cosa che può promettere: trarremo conseguenze se dall'Egitto non ci sarà collaborazione. Vabbè, a proposito di Bruxelles, giusto per rimanere sul tema di terrorismo internazionale, ma ci sono tanti articoli ovviamente che mi hanno colpito. Ce n'è uno su tutti, davvero, è quello che scrive il Corriere della Sera con Luigi Offeddu, una esemplificazione di come secondo me i nostri valori stanno per essere schiacciati, e lo dico con il sorriso sulle labbra: moriremo tutti, moriremo presto, soccomberemo. Sentite qui cosa succede, cosa proviene dall'Olanda. L'Olanda, patria liberal, la più liberal d'Europa. Succede agli uffici comunali di New West, 133.000 abitanti, uno dei più grandi fra gli 8 distretti municipali di Amsterdam, uno degli comuni più popolati da immigrati medio orientali africani di fede musulmana. Questo è il contesto. Succede che arriva una mail dagli uffici comunali alle impiegate del comune con questo consiglio: è sconsigliato indossare minigonne in ufficio. Ma come? Sconsigliato portare minigonne in ufficio? L'email del comune che fa infuriare l'Olanda. Le dipendenti non devono indossare una gonna o un vestito che arrivino sopra al ginocchio, e gli stivali al ginocchio sono inappropriati durante il lavoro al banco. Questa circolare interna, giunta qualche giorno fa al personale degli uffici comunali, è la mail che ha dato inizio al tormentone, bombardati da messaggi ironici, furiosi, in un senso o nell'altro, al comune di Amsterdam, perché le dipendenti in subbuglio si chiedono: possibile che ad Amsterdam, una delle capitali tradizionalmente più liberal d'Europa, patria di storici movimenti femministi di tante rivendicazioni, le autorità vietino le minigonne o gli stivali presunti sexy, e che lo facciano per non urtare i sentimenti o i pregiudizi degli immigrati musulmani abituati alle loro donne velate? Vi rendete conto? Soccomberemo in fretta, senza neanche accorgersene, come la famosa storia della rana bollita, che la metti nell'acqua, aumenti la temperatura poco alla volta, lei non se ne accorge, e quando se ne accorta è bella che bollita, per l'appunto. Soccomberemo in fretta, e ce lo meritiamo. Se ci sono queste mail, ce lo meritiamo. Meritiamo di scomparire anche senza troppe recriminazioni. E poi che dire? Beh, mi ha colpito anche molto la diatriba che c'è su una giornalista. Non è una questione di difendere una collega, ma insomma una giornalista, Benedetta Salsi, del Resto del Carlino, edizione Reggio Emilia, che sta da giorni combattendo contro una problematica molto molto seria. Ha scritto alcune notizie di carattere pubblico, soprattutto legate alla vicenda di un italiano convertito all'Islam, Luca Aleotti, nato da padre italiano e madre maghrebina. Ha scritto che era indagato per terrorismo, notizia data da quasi tutti i quotidiani locali, e poi ha scritto che su di lui ci sono state altre restrizioni, accuse di stalking nei confronti dell'ex fidanzata. Insomma, ha scritto queste notizie, la giornalista Benedetta Salsi. Da allora sul sito dei Musulmani d'Italia vengono pubblicati un post contro di lei, con foto, età, indicazioni su dove lavora, insulti sessisti, ingiurie prive di fondamento, come scrive Libero con Roberta Catania a pagina 9. Cosa succede? Che la collega chiede che Facebook chiuda questa pagina. Da Facebook arriva un rejected, cioè una risposta, come dire, respinta questo tipo di richiesta. E ora c'è tutto il dibattito. Capirete che Il Giorno, io ho l'edizione di Milano, insomma del Resto del Carlino, ma Il Giorno oggi torna, pagina 2 e 3, su questa vicenda. Minacce alla cronista mai rimosse, il governo dice intervenire su Facebook, interviene il sottosegretario Ferri che dice turba il no del social al decreto del giudice, c'è un decreto del giudice che dice rimuovete, comunque chiudete quella pagina, insomma rimuovete quel post, e anche un'intervista al garante della privacy che parla, pagina 3, di questo rifiuto di Facebook, che definisce davvero strano questo Antonello Soro. E insomma, comunque c'è anche questa vicenda che mi ha colpito. C'è anche un'intervista all'ex interista Marufì, è tutto vero, perché uno dei terroristi di Bruxelles aveva preso anche l'identità di un, per un certo punto, di Ibrahim Marufì, calciatore che oggi sta a Bruxelles ma che ha militato nell'Inter, ha giocato anche in Serie A al 38esimo della ripresa di Inter Livorno il 25 ottobre 2006, è sceso in campo a 17 anni con Roberto Mancini che lo fece scendere in campo. No, te lo ricordi Mauro Meazza? Te lo ricordo. Marufì, Marufì. Ma certamente, buongiorno caro Alessandro. Buongiorno, buongiorno. Come ti hanno già segnalato alcuni ascoltatori sì. ieri, questo fatto di prendere l'identità di un calciatore interista era per sviare i sospetti, ovviamente. Chiaro, è chiaro. Trattandosi di una società corretta, questa era una garanzia di correttezza. Vabbè, insomma, ci permettiamo di fare... così qualche cosa di leggero su una vicenda che leggera non è per niente. Ricordati caro Alessandro invece che devi pagare. Sì. non solo devi pagare sì. le imposte che deriveranno dalla tua dichiarazione precompilata, vedi che sto attento a non sì. sbagliare, di cui ti spieghiamo, ti ricordiamo anche l'agenda delle varie date sulla pagina 1 e anche 3 di oggi, leggi Giovanni Parente che ti spiega tutti i dati, attenzione alle detrazioni edilizie, verificate se avete diritto al 50-65%, è tutto oggi sul Sole 24 Ore. Ma ricordati che devi pagare, non solo sì. tu, per carità anch'io, la tassa rifiuti, come si no? chiama Tari, non confondersi con altre imposte, con altre tasse, la Tari, e la quale sta diventando esosetta, non so se si può dire esosetta. Esosina. Sì. Esosetta, perché è cresciuta quasi del 10% già l'anno scorso e continua a crescere. Te lo spieghiamo con dovizia anche di classifica dei capoluoghi di provincia, pagina 2 di oggi. Quindi vedi naturalmente tutto quello che devi pagare e prendi buona nota. Mm-hmm. Prendi buona nota anche del fatto che oggi con il Sole 24 Ore trovi l'Istanbul su famiglie e diritti sì. con le novità in arrivo dal DDL, dal disegno di legge Cirinna, quindi le unioni civili. Mi raccomando, sono 80 pagine, sei già passato in edicola a prenderlo, no, guarda, no, io non te ne tengo una copia, non venire poi a chiedermi la copia come fai di solito. E quindi non ti dimenticare questo. Volevo segnalarti invece, tra le vicende, diciamo una notizia, una buona notizia, so che tu le cerchi sempre, la Banca Centrale Europea ha segnalato che c'è stato un leggero aumento dei prestiti alle aziende nei mesi passati, un più 0,9, che ma se è sempre uno 0, ma meglio che niente, diciamo dimostra un rialzo che non si vedeva dal 2011 addirittura. Poi, qui Radio Fisco, attenzione. Ma potremmo anche dire qui Radio Previdenza, dipende. Ci sono le istruzioni dell'INPS sull'esonero contributivo. No, tu fai il sarcastico, ma guarda che sono importanti. Ne riferiamo su norme tributi che tu leggerai scrupolosamente. Scrupolosamente. E poi sappi anche, questo un'anticipazione che io trovo molto importante, cambieranno il codice del triage. Hai presente quando uno ha bisogno di andare in pronto soccorso gli vengono assegnati questi codici verdi, bianchi? Sì. Ecco, si passerà a un sistema invece numerico un po' più articolato, da 1 a 5, ma ti spieghiamo tutto sempre su norme e tributi che tu, leggendo scrupolosamente, potrai subito capire. E ricordati un'altra cosa, che se ti metti in malattia poi non puoi andare a caccia. Ma non vado a caccia. E così era successo, non so se tu vai a caccia o meno, però un dipendente in malattia andava invece poi a caccia e, come dire, è stato purtroppo licenziato, sì, e il giudice ha detto che sì, effettivamente mettersi in malattia e poi andare a caccia, beh, gli è parso un po' troppo. Va bene, tutto ciò premesso, traffico! Pantera millesimato, l'IRP di Infracom Italia per le aziende vitivinicole, sempre col TH. Vi presenta... Alessandro mio, alla catanzarese, Alessandro mio, che vamo a te dico io. Quando lei è giornale Alessandro mio, a me ti ricordi, con l'occhio te veo e con l'altro te coglioneo. Allora, io devo dire di aver capito tipo il 3% di questo... Diciamo che il finale è abbastanza chiaro. Va bene, comunque, se vi firmate, se ci dite anche il dialetto di che zona d'Italia è, ci fate una cortesia. Non so, dice un dialetto di Molfetta, per esempio. Catanzarese. Ah, l'ha detto all'inizio, va bene, ero distratto. Dialetto di Catanzara, il catanzarese, straordinario, caro ascoltatore. Allora... Firmatevi anche, però dite, sono Giorgio da Catanzaro, va bene? Allora, Renzi è in America, ci sono queste foto, l'inaugurazione di una tour americana, ha fatto anche un'inaugurazione della nuova centrale ibrida dell'Enel vicino a Reno e... ha parlato anche parlando e definendo finti ambientalisti coloro che... vogliono il sia il referendum sulle trivelle, referendum di cui si parla pochissimo, ma si vota il 17 aprile. Il piano di Renzi per la banda larga e IBM prepara lo sbarco nell'area Expo, questo è il titolo invece del Corriere della Sera, pagina 14, nella missione americana, nella quale ha parlato appunto anche di finti ambientalisti. Ha inaugurato l'impianto Enel Stillwater in Nevada e ha parlato anche dei nuovi investimenti, in Italia, Renzi, ma soprattutto la sfida è sulla questione delle trivelle. Qui i governatori invece italiani, alcuni di coloro che hanno portato avanti questo referendum, il primo fra tutti Emiliano, oggi viene onorato di una pagina da Pierluigi Battista sul Corriere della Sera, la guerra di Emiliano, comunque vada al referendum, è il governatore della Puglia che usa questo come biglietto nazionale nella sfida che ha lanciato la leadership del segretario, questo Michele Emiliano. Mentre se andiamo alle amministrative continua la questione di Bertolaso, che fa Bertolaso allora a Roma? Lascia, molla? Oggi in un'intervista Antonello Caporale sul Fatto Quotidiano, Antonello Caporale lo intervista e dice: ma quale ritiro? Io resto, tutti dicono che si ritirerà, ma tutti chi? Io resto, naturale, certo, strasicuro, confermo, dunque resta, non si ritira, potrei farlo solo se vedessi che la gente mi sfancula. Così testuale Bertolaso. Ma la vedono bene come coordinatore nazionale di Forza Italia. Cosa? E che mi frega di Forza Italia? Mica sono un politico, mica mi metto nei casini. La Meloni la odia, ma non so e non mi frega. L'ho conosciuta e mi basta. Lei effettivamente è un uomo del fare, Bertolaso. Io sono pratico, immediato, disponibile, generoso. Appena mi vedono restano un po' freddini, distanti, come se indugiassero nel sorriso. Ma la spernacchiano, ma niente di tutto questo. Semplicemente restano sulle loro. Poi mi vedono all'opera, riconoscono nel mio linguaggio il tipo pratico che sono, la capacità di aggiustare le cose. Insomma, non si ritira. E dalli! Ancora Bertolaso, ma tutti in realtà raccontano che è possibile il ritiro di Bertolaso. Bertolaso che tra l'altro ieri un giorno da pecora ha promesso testuale: se sarò sindaco renderò balneabile il Tevere in 5 anni. Balneabile il Tevere e guerra ai topi. Non d'appartamento, quelli veri. Questo Bertolaso. Va bene, lasciamo Bertolaso. Se dobbiamo andare alle questioni di cronaca finale, vi suggerisco una pagina del Corriere della Sera, pagina 27, sui diritti digitali dei minori. È una questione che mi pongo anch'io tutte le volte che pongo su Facebook, per esempio, una foto dei miei figli. I genitori che mettono online le foto e le vite dei figli senza pensare di dover chiedere loro il permesso. Dalla Francia agli Stati Uniti aumentano i dubbi di psicologi, i dubbi dei giuristi. Ed è Elena Tebano che ne scrive una pagina, pagina 27, anche perché è uno studio realizzato all'Università di Washington e del Michigan su 249 famiglie con bambini tra i 10 e i 17 anni rivela che la principale preoccupazione delle adolescenti rispetto al social network è che i familiari possano pubblicare informazioni personali sul loro conto. Quindi vedete che c'è una problematica che gli adolescenti sentono molto, cioè l'idea che i genitori possano un po', è come dire, mettere in piazza cose che gli adolescenti non vogliono che vengano messe in piazza. E quindi i diritti digitali dei minori, pagina 27 del Corriere della Sera, ve lo segnalo. Così come vi segnalo sempre sul Corriere della Sera, è Luigi Ferrarella che ha questa notizia: i 115 milioni per il petrolio in Nigeria. La Procura di Milano indaga la Shell, Royal Dutch Shell, che per l'indice Fortune Global 500 è la seconda compagnia petrolifera, in assoluto il terzo gruppo al mondo dopo Walmart e China Petroleum, è indagata per ipotesi di reato di corruzione internazionale dalla Procura di Milano in relazione a un accordo da 1,3 miliardi di dollari del 2011 tra Eni Shell e il governo nigeriano per sfruttare un blocco petrolifero in Nigeria. Corruzione internazionale, sono state già perquisite all'AIA la società e l'ex ministro africano alla giustizia. E le notizie sono di Luigi Ferrarella, le trovate a pagina 22 del Corriere della Sera. Mentre voi sorridete, voi andate avanti, procedete nella vostra vita, ma non vi accorgete che in Italia c'è stato un colpo di Stato. Un colpo di Stato nel Principato di Seborga, paese dell'entroterra di Bordighera che da decenni è protagonista di una battaglia per l'indipendenza dall'Italia. Il principe eletto dal popolo 4 anni fa, Marcello I, al secolo imprenditore Marcello Menegatto, è stato, non dico soppiantato, ma a lui si è affiancato Nicolas I, Nicolas Mutt, francese della Bassa Savoia, che l'altro giorno in un proclama online ha annunciato ai sudditi di Seborga il programma per lo sviluppo economico e il benessere del Principato. Colpo di Stato nel Principato di Seborga. Lo racconta La Stampa. Ma rimaniamo sulla Stampa per la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, un'intera pagina di Roselina Salemi. È tornata la mia amica Roselina sulle danze tribali e i drink alcalini, quelli che rigenerano le star. Ma chi se ne frega!